dice Griselda, che più temer possio, oh, che non vedo la ragion di sperar. Tutti a miei danni congiurano le stelle, abbandonata, tradita, vilipesa, ho perduto la pace, il mio riposo. Ai destino crudel, ai fine.